Radio 24 Reportage. Dalla Via della Seta passa il futuro dei porti italiani, di Andrea Ferro. Tanto tempo fa erano carovane e cammelli ad imboccare una rotta che, seguendo linee irregolari e scorrendo su piani inclinati, partiva dall'Asia orientale, tagliava un pezzo d'Oriente e, come un fiume dopo tanto scorrere, sfociava nel Mediterraneo, capolinea del viaggio infinito. La chiamarono Via della Seta perché lungo questo percorso la Cina trasferiva negli altri mondi il tessuto pregiato dall'essenza quasi segreta, frutto di una formula che si credeva magica. Narrano i libri di storia che le prime tracce di questo percorso risalgono al 114 a.C., ai tempi della dinastia Han. La Via della Seta, così intesa, sopravvisse fino al XV secolo, quando l'apertura delle vie marittime costituì un'alternativa, succedeva più o meno un secolo e mezzo dopo l'impresa di Marco Polo. Nell'otto volante dei corsi e dei ricorsi della storia, oggi quel percorso idealmente insabbiato dal tempo torna alla luce e segna la stessa rotta tra terra e mare. Non ci sono i cammelli e le carovane, ci sono grandi navi o treni lunghissimi, carichi di tutto quanto un sistema produttivo infaticabile esporta dall'Oriente verso l'Occidente, ma soprattutto un piano di sviluppo infrastrutturale varato dal governo cinese per accorciare le distanze e non solo, come ci spiega Michele Acciaro, professore associato di logistica marittima della Kuhn Logistics University. Sicuramente nell'idea che è stata sviluppata dal governo cinese, come Via della Seta non si intende soltanto un insieme di infrastrutture, ma si intende sia una visione economica ma anche una visione geopolitica, quindi comunque ha un peso molto diverso rispetto a una semplice linea di collegamento tra est e ovest. L'idea è un progetto di lungo termine, come spesso accade in Cina, i progetti non vengono sviluppati da un anno all'altro, c'è anche una certa costanza di visione politica per varie ragioni, e quello che è successo negli ultimi forse 30 anni è proprio una strategia di sviluppo del paese che prima ha visto una fase di chiusura e adesso negli ultimi 15 anni una fase di apertura, e anche imparato da forse le multinazionali e da quello che hanno fatto i paesi occidentali a come effettivamente si diventa una grande potenza industriale. Per l'Europa, per l'Italia è un'opportunità, ma bisogna essere anche preparati. Sotto questo profilo mi pare che ci sia qualche timore. È sicuramente un'opportunità perché la Via della Seta offre un nuovo collegamento e il miglioramento anche del commercio internazionale, quindi in questo senso è sicuramente una buona possibilità. Diventa un rischio perché è chiaro che non siamo quelli che hanno sviluppato questa strategia, è una strategia che è sviluppata dalla Cina e che quindi ha come scopo fondamentale quello di portare avanti lo sviluppo cinese e non lo sviluppo italiano. Poi ci possono essere delle sinergie, quindi è importante avere una visione d'insieme e concentrarsi per far sì che questo diventi proprio un'opportunità, e però è necessario avere una visione anche per il futuro. C'è anche chi vede un rischio di essere colonizzati dalla potenza cinese. Beh, è un rischio che è possibile. Vediamo che quando i paesi hanno delle difficoltà economiche, purtroppo l'Europa, nonostante alcuni segni di ripresa, però ancora ha delle difficoltà economiche e si è più vulnerabili anche alle acquisizioni dirette o indirette in vari termini. Quindi, come abbiamo sentito dal professor Michele Acciaro, al di là dell'espansionismo commerciale della Cina, al di là degli scenari geopolitici in divenire, per il nostro sistema logistico la Via della Seta costituisce già una chance decisiva che, se non colta e sviluppata, può trasformarsi in una condanna alla marginalizzazione lungo le rotte mondiali delle merci, alla faccia della nostra posizione geografica favorevolissima. Già anni fa i cinesi avevano individuato in Gioia Tauro il porto ideale nel quale investire per trasformarlo poi nel loro termine all'affacciato sul Mediterraneo, ma la burocrazia ostacolò il progetto e così virarono sul Pireo. Per intenderci, in poco tempo il porto greco è passato da 500.000 a 3,1 milioni di container movimentati. Non tutto è perduto, ben inteso. Augusto Kosulic, ultimo esponente di una dinastia di armatori, agenti marittimi e spedizionieri, conosce bene i piani di espansione dei gruppi cinesi, che come sentiamo continuano a guardare all'Italia con interesse, ma non c'è più un attimo da perdere, anche perché nuovi concorrenti incombono da nord. Ho una joint venture con il governo cinese ormai da 30 anni, nella parte marittima ovviamente, e mi hanno già comunicato che il loro target è quello di entrare in Europa con due porti, uno che è il porto di Pireo, che si sono già comprati, e un altro quello di Vado Ligure, che sarà più o meno finito perlomeno a metà l'anno prossimo, nel 2018, e da lì poi loro vogliono, diciamo, aggredire l'Europa. Purtroppo non siamo ancora pronti come infrastrutture. Cosa manca in particolare? Io praticamente, se devo scaricare un contenitore a Genova o vado a Ligure e portarlo a Rotterdam, mi costa 1000 euro. Ora, lei mi capisca che se devo spendere 1000 euro per portare un contenitore da Genova a Rotterdam, è praticamente impraticabile la possibilità di attrarre del carico che viene direttamente portato a Rotterdam e sbarcarlo invece in Italia, cosa che invece i cinesi vogliono fare. Ma con questi costi, se attualmente la ferrovia non è competitiva, perché sulle tratte piccole, tipo per portare il contenitore nell'area di hub, il cosiddetto hub che può essere Melzo nel caso di Hannibal, oppure Bussarsizza nel caso di Upac e così via, io devo andarci col camion. Tra camion, poi quello che mi costa il treno sono 1000 euro. Chi me le paga queste cose? La merce non paga queste cifre qua. Bisogna recuperare in tempo in infrastrutture, in terzo valico, quindi, e cercare di offrire un servizio che sia più economico, diciamo, che possa competere con il carico che attualmente va in Nord Europa attraverso Gibilterra e va a Rotterdam. C'è anche la possibilità, purtroppo, delle navi che usufruiranno della rotta artica, che è anche un pericolo, perché attualmente la rotta artica, insomma, si sta sciogliendo tutto, per cui la rotta artica diventa navigabile. Un mese fa è partita una nave da un porto della Cina al nord, una nave di 2000 contenitori, qualcosa del genere, che ci ha messo e è andata direttamente in Nord Europa sulla rotta artica, saltando tutto. Insomma, c'è da fare presto, perché il tempo è denaro, il governo cinese ne sta investendo a palate per strutturare questo canale d'accesso via mare e via terra verso il Mediterraneo e l'Europa. È stato calcolato che l'investimento cinese in progetti relativi alla nuova via della seta è stato pari a 60 miliardi di dollari e dalle banche arriveranno altri quattrini. Per l'Italia la sfida è recuperare il tempo perduto, bonificare quel sottofondo di burocrazia, lungaggini, veti incrociati che hanno ingabbiato i progetti di sviluppo, mortificato le buone intenzioni, dai porti alle altre infrastrutture, strade, raccordi, ferrovie. La via della seta, quindi, tra opportunità e rischi, è un po' il leitmotiv. A ribadire l'allarme Confcommercio Conftrasporto, che ha focalizzato i deficit strutturali e normativi del nostro sistema, deficit che si sono tradotti in una minore competitività della nostra logistica e dei nostri porti. Tra i principali paesi europei, la quota delle movimentazioni di merci nei porti italiani è passata dal 23% del 2005 al 19% del 2016. Mariano Bella è il responsabile del centro studi di Confcommercio. Ci raccontiamo che una piattaforma logistica, soprattutto il mezzogiorno del paese, potrebbe essere un'opportunità eccezionale, e rischiamo di perderne un'altra, perché la via della seta implicherà non solo come corridoio multimodale nuovi traffici rilevanti in termini di ferro e di strada, ma soprattutto le grandissime navi di nuova generazione che allo stato attuale sembra non possano accedere ai nostri porti, e quindi rischiamo di passare dal mare nostrum, dal Mediterraneo come mare nostrum, semplicemente un mare di transito in cui noi non lavoriamo queste merci, quindi non facciamo valore aggiunto, semplicemente ci prendiamo un po' di inquinamento di quelli che passano. Il professor Antonio Cascetta è amministratore unico di RAM, Rete Autostrade Mediterranee, società in-house del Ministero. Fino all'estate scorsa ha guidato la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cabina di regia voluta nel 2015 dal ministro Graziano Del Rio per pianificare strategie di interventi e dotare così il paese di un sistema logistico efficiente. Un approccio di sistema complessivo, insomma, fino a quel momento mai effettivamente praticato. In questa direzione va la riforma dei porti, diventata legge nel 2016, autorità portuali tagliate da 24 a 15, semplificazioni normative e gestionali e sullo sfondo la digitalizzazione dei traffici con l'avvio della piattaforma logistica nazionale. Io penso che quello che sia importante è che il nostro paese abbia un sistema di infrastrutture e di logistica che gli consenta di competere nei mercati in cui è competitivo. Sicuramente quello del Far East è un mercato competitivo. Io penso che la via della passa innanzitutto per i porti italiani e per i raccordi di questi porti con la rete ferroviaria core europea. Questa è la scelta, secondo me, più importante che il Paese ha fatto, con la riforma dei porti, con investimenti per diversi miliardi di euro sui porti, sulle infrastrutture che servono, senza gigantismi, senza lo sperpero di risorse pubbliche che sono limitate e vanno ben selezionate. Dentro questo quadro c'è un programma storico, epocale, di nuovi attraversamenti ferroviari delle Alpi, sul Brennero, piuttosto che sulla Torino-Lione, piuttosto che sul Sempione. Insomma, veramente l'Italia dopo 150 anni dai tempi di Cavour sta rifacendo un sistema di collegamento ferroviari alpini, e questi collegamenti saranno, diciamo appunto, consentiranno a tutti i grandi porti italiani del nord-est, del nord-ovest e del centro-sud di raccordarsi direttamente con l'Europa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.